vuoto, non ho assoluto, ma vado nel vuoto, quindi un arco voltaico su vuoto non andava, però quando bagaglia andava in corto, sicuramente, però andava in corto pure, in canonica, hanno capato le cotta, hanno capato che se la maltrattavano, i suoi subì, praticamente Sagrigliasa, o il giocato eccetera, ci hanno andato su, in corto di Sablacca. Tutti i piedi, no, in preso ogni volta, quindi in un modo, cosa succedere? Ma perché, sicuramente, solitamente i grigli ammazzano, hanno l'incontro di Sablacca, comincia a prendersi, tanta se ne fa la subusibile, che è un isarico allucinante, ma basta che si avvicini più di normale, lui si avvicina per rispettare, non sì, sì, già, ma non è giusto, ma non è già bravo, ma non è che il traffico fa sapere, no? compresi il cuore, e poi la persona deve essere più onesta, no? Se si sicuramente la luce in casa al volare è difficile, se vuoi nella punta e devi creare come ti ritocca, va. Ma quello il carrattone, due di fuori, un carrattone, tu non mi ricordo, non la idea, no? Ma è colpa di dire con il mano, ecco, no? Solo così. Molto spesso non ha problemi di camminare. C'è valvola bene che non può dire mai una, da una marea non da passare, mai una, ma né transistori né nulla. Ma disattenzione sì, senz'altro, non voglio essere tutta la in mano se non valgo, tutta voglio essere, però l'usare valgo a noi come anche un buco, come si sa che è un altro con due valvole, dovete lavorare in coppia con l'altra valvola, i valori sono quelli, però fondamentalmente bisogna sapere quello che si fa. Non lasciarlo in mano ai vitelloni che fanno le cose a scimmia e ritrovarsi con una sorta di betoniera piuttosto che un finale lineare o un finale di potenza così lineare, appunto, visto che le correnti di tensione in gioco sono abbastanza alte e uno così butta dentro tutti cose, fa e poi si appioppano colpe che magari non si può nuovo, magari non è corretta la corrente che arriva di grigio, di lua, bisogna vedere come è polarizzata, appunto, e questo è il problema, bisogna vedere come è polarizzata, perché quello che erano col filamento, pure quello non ne hanno caso. Un 448 la mandi a quel paese, si inseglielo, in mano un vitellone, no? Come dovrebbe dire? Un cubo di versione buono, un cubo di maduro, si capevano di ventolo, si riflettono di maduro sullo ventolo, si abbaldano, ma non c'è più vitellone, non vanno a dire, me la dire tu, prima di avere questa potenza, lo pone in mano, a un branchicinia, e così fa che ne so pure questa banana, subito. Subito che ben bravi tutti questi. Certo. Hai visto attenzione, no? Subito da poco. Ma se ne è, te lo detto, ma se ne è. Ah, così bello. Signora, 572 di. Che non parla con chi bello, io sono esattamente per il mio montanato. Ho passato chi. La ragazza, scusa, vabbè che mi fa cacciare, ma questa è una di difficile. Che cavolo? Non mi cacciavo questa mattina di qualche giugno di cacciato. Ehi! Toccando, tocchinendo, tocchinando, pattugnando, brullando, spicciolando, mentre la macchina bruciacchiando, meraviglioso. Corumi, vai figa di nuca. Bello, bello. Oh, che cazzo. E gado. Ok, fantumio. Se non c'è niente, non c'è tempo, c'è sogno, andate in fumo. Sai perché? Vedo quando sono soffignato, frattrugnato, vedi, farfallato, no, ragazzi. Ma fa dire del radar, ma che si vede, che devo andare più strisso. Compresso. Basta vedi che si hanno l'impresso quando fa il mezzo. Tutto quello, così e diventa una lineare begazza, no? Un catenatore esso, pure appassionato di begazza, no? In Cattaruccia si fa più un lineare che si fa dai, a Fondiava e bucchia sotto bravo, un'altra che a Fondiava. se lo sempre a subito? Sull'ala di Mugus. Sicuramente è potuto fare come Giorgiano, con tutti i raccaroni, con Dabbe, con Desilio, con questo. Sto fa niente. Per darmi, quindi fa pena, quindi si sta roba male con gli oggetti. Comincia a chiedere a prendere il mezzo di una intona con una bucina. Di bottelle, anzi da miocco e panudica, a miocco, quelli che mi hanno fatto vero, famiglia, che mi vanno, e sono le bruglia, soltanto lui sono altri di bruglia, in ciglia, sai di qui, lui si dovrebbe meglio guardare, il tabacco sulla terra, come finale, con due attimi di 60 minuti, che mi ha beccato che era una corrompa, e così Aldo Moro, una corrompa, cazzo, mi ha beccato, ecco, cazzo, si attacca la caffonica di due penne, anzi, no, Questo vaso è bellissimo, funziona bene, tanto, è tutto, Diversamente, sì, lo già stanno concorrendo, questo deve fare gli interventi. Il corrobittore li ha rinomati. Ma i tempi, ma io vedi che non si predice. Grazie. E anche il gioco laudato, ma il giorno va ritornato con laudato. Lei c'è una valvola in una commissione, tra l'altro ci dirà la che stanno guardando su da stazione del Manolica, fortunato che la gara sta Manolica. Boh, ma perché io devo dire che c'è questa cacciola di brutta in questa zona? Ah, male! Questa liquidità rende invece, e poi, mi stiamo anche via d'acqua, quindi, comunque non è possibile. Oh, io, ha tentato il mio civile, quindi, faccia a mano, quindi c'è questa missione, non ti perdono niente. Tu incoglio, quindi, tu incoglio, quindi la precauzione ti incoglio. Franca, sì. C'è la pittesa appena, la pittesa arriva da Enel, la pittesa arriva lì. Ma dice che non era tu, mica c'è una bruciatura di calanta, sta cosa, da fissare. Cappa, tu. Quella che le corre allo stesso. Non è la di un buono, possibilmente, di un po' che si mai. Parole per farci vedere. Sì, sulla tonale si è una valvola. In questi due vivono, se non lo e di proprio uno, così che se mi buca due dice due abbiamo già basso. Però non la si faccio tutto. No, la buca già è di siete la piazzata per farci andare. Lo posso controllare. No, no, ma questo io dovete sorrare, qui è qui la tua mano. Compreso. Poi ho capito che la macchina dai, mi dice di no, ma non lo faccio più. Ah, non so di cosa devo fare a cavolfiore. Tu ci mi dispiace, ma basta, tu te la butto, ci mi vuole tentare, magari devi scendere per la granellare, però arrangio di lui, no, non mi dice. Perché mi disessero, quando sei di soffrare. Ma adesso perché non fate una cosa, prima di bruciare la valvola nuova, come che la valvola di Bettona i suoi disastri? Ma fatto, lo brinca. Ah, l'ho partita dall'angolo, punto, via, è una bucola. Questi due, ma da tra pure si brucia la mera nel mediano. Con la gocca, come si dice va bene, si sta nel dentro. Sì, la gocca, come la nuova questa tua cazzo? Rapporto, lo tratta bene, non gli dà la pilotaggio meta, gli dà più manca un lascia, il diretto, ma non conviene, manca la linea di troppo giù, troppo, sui troppo, sui troppo cavolite, assorbi un battro ampero, e quindi sicuramente di questo assorbi un battro ampero ognuna, ok? Quindi sono 6-3-4-24, sono 20 batto cazzo. Quindi questo filamento, aveva 20 batto cazzo per essa. Se ti vuoi 50 watt di rioccaggio, boh. Si passa la valvola. Ma interessa che sarà di frequenza di dividi. 51 e 56 tra la rigida. Però non sono ancora una valvola. Rodeo, come si dice Rodeo? Ma si dice che sei che se non piccolo vero, no? Perché il pavo lineare sicuramente, ma se non piccolo vero, quindi si sbaglia a capire se non piccolo che se non sbaglia una cacca, lui si dice mezz'ora che sta per tante. Però i due, se non piccolo che sei fatto, sicuramente fai tu, no? Come tu vai in? Comunque, se lui deve essere, sono attivati dove si chiama. No, bingata! Chi sa fatica andare a fare da chi diventa per noi? 269, uno di dai, un altro di dai, tipo la guida, con un brutto parecchio, ma fate che adesso appunto il carabinino, se no no, si fa un casino. Pensa a noi se ci ha fatto la Simbiente 72, magari l'americana, bene, bravo, no? Comunque sarà una cosa. È una cosa. C'ha una pena di denaro. Esattamente. 72. Dai, lo devi citare. Cuba gli ha brutto giù, da Cuba gli ha brutto, ma così succede. Ma comunque, simile a sottotitoli di un gigante. Tu sei tu la quintesi? Però non c'è l'ho pulito da fare la diapazione, ma non c'è la diapazione. C'è qui la fa. Ehi, vabbè. Una calcoletta, adesso. No, è 80 anni fa, ragazzi. Sì, sarà, facciamo il conto. Ma sinceramente io l'ho inteso, no, andrà bene, quindi è abbastanza buon per voi capire quanto un minuto dura, non dà idea, comunque, questo sta a vivere, cazzo cazzo, quanto un minuto dura, però andrà bene, o no, sul segnale di voi, sinceramente, io ho quindi questa lancetta con la vecchia che si gira un po' di cardone. C'è un problema. Se la nave vi sta mando qua, con il cazzo di fumo, non c'è... No, non lo regge questa qua. Ho preso via, la sua sciura, sotto tanto di via, non lo regge anche. Non me la ricetta a lui. Se mi fosse un po' più che non c'è. Si bava una sfida del vestito, va a subire il minimo. Un'antenna vedo che è subito qua. 3-3-16, potrà tagliare un tranquillato. 3-3 che non andrà bene. Tu prendi lì. No, fai la luce a carica. Ma che deve succedere? Non si può ci fare niente. Sta 3-3-16 qua. Uno dei due vestito qua. Io perfetto, se cazzo tu... Tu sei appassionato il TB, tra l'altro, in Italia, che ha finito l'inizio anni 80. Ma quando pensai che con qualcuno di Cardomo non si stanno portando, infatti la problema di Isari, ma sono di meno molto importante di questa cosa, neanche altri giorni lì. Ma rifacciato da Lanchetti, non mi passava, no, ma... Che mi casino, tu non sai che con qualcuno, c'è Cardomo, in quel momento ha portato di pure il domo tua. Ma non è che dice molto male per un elemento una parte da buia, no? Che il tuo, non parli di quello che dice. No! No, no, caro mio, tu è come se sei come, cacca di barrile. No, ma sono fatta a te, cosa? Non puoi non fare. È una macchina troppo lenta. L'ha costruita, me l'ha nato, Alex ha montato anche la data a raccontare, no, raccontala io. Io sinceramente macchina piano non l'ho costruita, la sera attesa, la sera attesa, cuccia il metto, la sera attesa, cioè, e poi ha tutto preparato, ma una fune, lì dava il suo crocco, così si caccia di nato, si fa giugno, vola, no, su piano, e quando si dava il suo crocco si zavara, e cuccia il metto, e qui la critica si cosa che vede si zavara. Forse sono guardi che c'è in macchina a vedere se tu o Luigi Romero. Casi fra, tu in Italia, non è stato in Italia. Beh, io sinceramente, tutto rispetto, sono un cliente di più contenti, gli altri due ho visto che mi amano, però vengo di Casi d'Italia, mi apparecchio dai vicini, poi ho due tipi di italiani, fantastico, ma la canale di la più affrontare di più con il mezzo e con un unico indice. Allora, la storia è andata bene, lo vedi? Se vedi che va, non è che non hai, non mi sa fatto di vincere la presa. 572, 724, come non ammetto, devo fare qualcosa, devo fare la gara, devo fare la gara, mi pare che sono cosa da mirare, però, quello di 3 o di massimo pubblico di battaglia, mirare niente, non credo, guarda, non mi sbagliare, ma non pare che è una bimbi di massimo che lo faccia, da voi come fai a creare problema. E lì scocca un buco nel cane, un libro d'acqua. E adesso cosa le fatti si fate dal tubo, completo. E quindi mi sono messo 62, che diciamo a barba perché è fritta, per accusa, da quello. Non capisco se c'è qualcosa da voi per mettere sotto coppia. Niente, di questo problema, purtroppo scende locale da punto di filamento, filamento cattolo, non è che hanno una grande resistenza, ma da questo punto di vista voi, come se ha trattato di filamenti, se si misurava, si misurava bene, vuol durare 20 anni. No, non mi do il scenario, dice qualcosa. Lei si, 1200 watt, 1000 watt, 500 watt, 600 watt. Drive volta di 2415, drive requipment 100 watt di 50 watt. Allora, dava tre tipi di possibilità, quando si dava una definizione, no? Beppe, allora, regime normale, centro e massimo, che ha chiesto una voce su massimo. Non può travagliare questo massimo e nemmeno questo centro deve travagliare su mia, a me te le buco una volta. Se vedo una macchina, no? Se questa macchina va vedo un massimo di 20 km all'ora. Se poi cammina sotto 20 euro, non si avanza il motore, quindi deve camminare massimo 80 km all'infine. Comunque già esce. Dovrebbe essere. No, no, no, mi sbaccia, questa è una macchina che veramente si manca da 400 euro, non si vega, cioè, ma anzi si incontra del significa la Gesù Maria, ma 800 watt per me si farà così fondamentale, ma neanche io vedo salente. Non gli viene un peso basso quanto quattro continuo amici, io vedo le AM, lui si sta portando. Ma a quanto quattro, lì si significa, ti fa un dramma non parlare da valvola. E me dai. Un dramma non, è un dramma non sul segnale di lavoro, un dramma non che continuo. Me dai, no, che ti sta a fare? Ma quanto quattro è me la? Una del mille, due amici, tre amici di vicino, però io ti danno lavoro, io ti danno a cucinare da decidito o quattro minuti. E la mia faticata da una mega qua. Mi cura di, è una più potente pure, però, poi non si vede a molto dopo senza resa, ma quindi, su quanto vatte, un dame, un mega, ma tu che è cucinare M lui, allucinante. In AM così me la faccio. Troppo una placca di una banda, come sa lo scala, quella voglia di ingrugiare in un modo maledetto. E sì, la stessa. Sono la stessa che ti dà di una M, sono la stessa che ti vuole dare da massimo una M più o meno di dare in banda. Sono di due, con questo tipo di valvola già, con questo tipo di valvola. Poi basti pure il tempo desiderato che ho fatto questo periodo, in AM mi danno un quarto di capotente e poi magari in banda mi danno già così, mi danno 70 in AM mi danno tipo 25 in banda, ma è una cosa di giorno, compreso, però robusta, sicuramente sono bloccanti, che si avvalgono, tu sento i riscaldamenti diretti da una battaglia, dopo che ti chissà, tu la smassa nella bocca vita, quindi devi stare ben attento, quindi di lotta, prima uno brigare il regolamento, e poi la tua la stessa che la tablacca, quindi ti sposto subito, quindi ti sposto, quando viene esaurimento, la fa quando addio. Diventa un vinto, ma che tutto in banda, in ello, così, si può dare. Camminiamo bene, se la prendo di più di tutti, non riesco in teoria la fissima con te. Pregunta che è morta, che è morto già. Però oggi, via lì, si sente quando fa un fatto, non tanto a mettere un peso all'inerzia, io ho storie in vita. Ma tanto a mettere io, non si dà l'assorbimento, come era la sua, ma si sente una... è ben allineata. Si ricordo tu, stai un po' fatto, ma se mi chiedessi chi Dio lo dai tu? Tanto, quando non basta preparazione, invece fai vendere preparazione, quando non basta preparazione, tu mi puoi rispondere, c'è la stessa Radio Vaticano, non ti intendo. Se mai che riprende la parola, io... Quando mi dice strada, sapevo che questa cosa che mi porta male, che mi dispiace, fastidio. dico quindi una cosa più alla Gnetta, che vedo sinceramente avrei finito di una bella vena, ma sicuro che è un po' di gusto, non è che lo affondimento 72, vuol dire che è più di gusto di altra cosa. Sta allogando, altro che affondimento 72. Oh, mi! Non mi ricordo. Ciao, riprende lei, buonanotte, grazie. Ciao, buonanotte. E quando entro a fare prezzi, non prezzi, comunque se prezzi questa notte di merda, il separa, scusa su prezzi. No, scusa, perché più italiano, anzi, è in inglese. E sa dove c'è, e se bava, fino tutto al più proprio può essere di uso, più signorile, di poter andare a primare proprio gatto. Ciao, avanti così. Sì. Gioia. E io vorrei dire che ha capito che attento in questo disastro di questa cosa, va. Tu vuoi dire se il coppero oggi?